Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non starò tranquillo, finché la sua giustizia non sorga come l'aurora e la sua salvezza risplenda come fiaccola. Allora le nazioni vedranno la tua giustizia e tutti i re la tua gloria. Ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore pronuncerà. Sarai una splendida corona nella mano del Signore, una tiara regale nella palma del tuo Dio. Non ti si dirà più abbandonata, poiché sarai chiamata il mio piacere è in essa e la tua terra sposata. Poiché il Signore trova piacere in te e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, ti sposerà il tuo costruttore. Come gioisce lo sposo della sua sposa, così il tuo Dio gioirà di te. Sulle tue mura, o Gerusalemme, ho posto sentinelle. Tutti i giorni e tutte le notti non taceranno mai. Voi che rendete memore il Signore, non abbiate mai riposo. Non date riposo a Lui finché non abbia ristabilito e non abbia fatto di Gerusalemme un oggetto di lode sulla terra. Il Signore durò per la sua destra e per il suo braccio potente. Mai darò più il tuo grano in pasto ai tuoi nemici. Gli stranieri non verranno più il tuo vino per il quale tu hai faticato. Poiché quelli che avranno raccolto il grano lo mangeranno e loderanno il Signore, e quelli che avranno vendemmiato berranno il vino nei cortili del mio santuario. Passate, passate per le porte, appianate la via per il popolo, selciate, selciate la strada, rimuovete nelle pietre, innalzate un vessillo per i popoli. Ecco, il Signore proclama fino ai confini della terra. Dite alla figlia di Sion, ecco, viene il tuo Salvatore, ecco, con lui è la sua mercede e la sua ricompensa è davanti a lui. Li chiameranno popolo santo, redenti dal Signore, e tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata.